no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Non tengo voglia, no. No, no, no, no, no, no, no, è assai più forte me. Una voce camprice, o mare, te va bene, udiva e sapria. No, e bello mare, e il sole assai più bello, quando che nuvola s'imbroglia, mamma gusti cappello, ma passa voglia e fatica, e allora iettarezza, e aspetto maestro, che è un bel viento, ma poffa vela, e a bocca mia si sazia d'aria, ora, ora, e bello mare, e bello.